lontani da sempre. Questa vita minaccia in questo mondo di guerra. Io nascondo la faccia, ho provato a cercare. Dietro i vetri scoprirai da quelle scene che sto in piedi. Siamo lontani da un anno, sono incerto e deluso. E ho capito che il danno è che torna l'inverno. Mi hanno dato notizie, sorridi e stai bene. Il problema è soltanto che il dolore rimane. Siamo lontani da Dio, anche quando preghiamo. Siamo lontani dal bene, anche quando doniamo. Ma ho capito di certo che la vita è una sola. Muoio e per questo, anche se ti amo ancora. Fredda è l'aria che mi taglia, molta gente mi sorpassa. Ora è pioggia in questa via. Se ti amo ancora, cerco un brivido per dirtelo, ma tu hai il tempo per conoscersi. Che ho freddo, ma tu non ci sei. Ora che ho freddo, ma tu cosa pensi di me?